Non vogliamo assolutamente anticipare i tempi né, come detto all'inizio di questo ciclo di catechesi, quando si affrontano questi argomenti, specialmente quelli fondati sulla rivelazione private, gli si dà un consenso, evidentemente di fede umana, se uno ci crede, non di fede divina e cattolica, fino a prova contraria, nella misura in cui queste cose convincono il nostro intelletto, no? E ci appaiono verosimili. E niente di più. Poi starà alla divina volontà far fare alla Chiesa il suo corso, perché capite come nel momento in cui queste cose dovessero entrare a essere contenuto, come dire, integrante del magistero della Chiesa, il discorso cambia. Ecco, dice, ma allora tu che fai? Fai entrare dentro la Chiesa una cosa che parte da una rivelazione privata? Anche questo non è che è tanto nuovo. Se uno ci fa attenzione, perché ce ne sono almeno due di cose che certamente nella Chiesa sono entrate a partire da rivelazioni private. Due, almeno, almeno. A livello proprio liturgico. Poi a livello devozionale ce ne sono ancora di più, almeno tre. Quali? Per esempio, la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. La festa del Sacratissimo Cuore di Gesù viene dalle rivelazioni private che Gesù fece a Santa Margherita Maria la Coque, compresa la richiesta che la Chiesa istituisse una festa in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù. E la festa della Divina Misericordia, che è stata istituita da San Giovanni Paolo II nella Domenica in Albis, viene dalla richiesta che Gesù fece a Santa Faustina di istituire questa festa. Se vogliamo andare sul devozionale, il culto al cuore immacolato di Maria c'era già nella Chiesa, ma certamente con l'apparizione di Fatima ha ricevuto un impulso ulteriore, no? Non parliamo poi delle pratiche devozionali ampiamente diffuse e ovviamente raccomandate dalla Chiesa, certo si situano su un piano devozionale, non su un piano liturgico, che sono i primi 9 venerdì del mese o i primi 5 sabati del mese. C'è qualcuno che dice che Pio XII sia stato spinto, diciamo così, come molla definitiva a formulare il dogma dell'assunzione, c'è chi dice, non è sicuro, sta di fatto che cronologicamente però nel 1947, alle Tre Fontane, quindi 3 anni prima del dogma, la Madonna affermò chiaramente: il mio corpo non poteva morire, non morì, non poteva marcire, non marcì, gli angeli vennero a prenderlo e a portarlo in cielo. Se è vero, sicuramente Pio XII ha conosciuto Bruno Cornacchiola e Bruno Cornacchiola queste cose gliele ha raccontate di persona. Questo è sicuro. Se è vero poi che sia stato influenzato per la definizione del dogma, quindi se questo un giorno si venisse a sapere, vorrebbe dire che anche in questo caso una rivelazione privata ha dato una spinta a un dogma. Io personalmente non mi stupisco affatto di questo, no? Perché nel corso della storia Dio continua a guidare la sua Chiesa in molti modi e attraverso molte forme. Lo fa attraverso il genio di alcuni grandi teologi, lo può fare tranquillamente attraverso questo strumento, no? Che il Signore parla e si rivolge a qualche anima semplice, a qualche anima piccola. Pensiamo se un giorno nella Chiesa avrà il diritto di cittadinanza la divina volontà, la divina volontà, per carità, sotto certi aspetti è nata con la Chiesa stessa, d'accordo? Perché sono 2000 anni che nel Padre nostro chiediamo al Signore questo, no? Però la sua, diciamo così, spiegazione fin nei minimi dettagli e in tutte le sfaccettature possibili e immaginabili, storicamente è avvenuta attraverso ciò che il Signore ha fatto con un'anima ben precisa che si chiama Luisa Piccarrete, che è nata in Italia e che è vissuta a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ecco, quindi questo per comprendere. Certamente fino a quando non ci sono degli step successivi, come dire, il nostro rispetto dovuto, ovviamente poi di me che sono un sacerdote, al magistero della Chiesa, rientra nel fatto del muoversi sull'ambito, del considerare queste cose come ipotesi attendibili, ovviamente, perché se non le ritenessi attendibili, mi ricordo, cioè, ho ricevuto qualche tempo fa una mail, mi fa: ma sta cosa di sta quinta dimensione, ma lei la ritiene attendibile? Dico, guarda, cioè, se non la ritenessi attendibile, ma ti pare che c'è da fare un ciclo di catechesi, no? Quindi, che sia un dogma di fede, no, d'accordo, che potrebbe non esserlo, per carità, però tutto è possibile. Ma se non la ritenessi attendibile, che c'era da fare un ciclo di catechesi sopra, stiamo già non so a quale puntata, 12, 13, 14, ogni tanto perdo il conto, quindi no, non lo farei se non lo ritenessi attendibile, no? L'eternità creata è utilissima nella religione, continuo a leggere, perché mostra l'importanza decisiva di qualsiasi atto e circostanza che ci è toccato vivere sulla terra. Ecco un punto fondamentale. Ogni spazio-tempo, col suo atto di esistenza, è di importanza capitale per il bene o per il male, per l'eterna beatitudine o per la perpetua disgrazia. Non soltanto ha valore il totale sommato o le somme parziali di ogni riconciliazione e di ogni incontro col nostro Dio, ma è anche preziosissima ogni addizione di corrispondenza alla grazia divina. Questo la teologia già lo sa. Nel Trattato De Grazia queste cose si studiano, cioè noi abbiamo la nostra vita si svolge appunto in questi spazi e tempi che si susseguono, dove noi compiamo degli atti che possono essere buoni o cattivi oppure qualche circostanza indifferenti. Per esempio, quando dormiamo, non è che quando dormiamo meritiamo o demeritiamo, se stiamo proprio dormendo, dormendo, dormiamo e basta. Quello è un atto ininfluente. Ma quando sto sveglio, no. Perché posso fare un atto cattivo o un atto buono, un pensiero cattivo o un pensiero buono, e queste cose si stagliano evidentemente nei vari spazi e tempi che caratterizzano la nostra esistenza. E ogni addizione di corrispondenza alla grazia divina è importantissima. Perché? Perché ti fa crescere in grazia sulla terra, e questo è ciò che già sa la Chiesa, e ti fa crescere in gloria nel cielo. Non è la stessa cosa. Aggiungere corrispondenza alla grazia, oppure no, non lo è affatto. Oh, le matematiche, gli atti umani perdurano vivi nella quinta dimensione. Le matematiche della Terra non coincidono con quelle del cielo perché manca loro appunto il parametro dell'eternità creata. Ancora, l'importanza degli atti umani, qui ci fece a tempo un tempo fa un ciclo di catechesi, credo, sul mistero dell'uomo, dove spiegavo anche bene che cos'è un atto umano, no? Gli atti umani sono per antonomasia proprio gli atti umani, quelli volontari, quelli in cui è implicata la nostra volontà. Che sono essi il principio del merito o del demerito, no? Quindi della virtù o del peccato. L'importanza degli atti umani in questo mondo, continua la citazione, è tanta. Se nella società voi raggiungete un maggior progresso cristiano, più felici saranno i vostri rapporti d'amore con gli altri beati. Ma se la superbia e l'egoismo indeboliscono l'amore di carità nell'apostolato, avremo purtroppo scarso numero di compagni di felicità, con un quantitativo limitato di spazi-tempi da godere. E quindi con minore abbondanza di piacere e di gaudio nella gloria occidentale. State capendo quello che sta dicendo? Così già sta rispondendo che mi cominciano a fare via mail e anche sui commenti di YouTube le domande. Dico, abbiate pazienza. Gli atti cattivi non sussistono più nella quinta dimensione, non possono sussistere. Perché il male, da un punto di vista filosofico, il male è il non essere. E il non essere non può perdurare. Perché il male non si può concepire mai come un concetto positivo, ma è sempre visto come privazione di bene. Quindi ciò che ti pare che, cioè, nell'eternità creata, no? Cioè, dove si rientra rivivendola dal versante del paradiso. Ma ti pare che io possa andarmi a godere dall'eternità creata uno spazio-tempo in cui ho detto una parolaccia? Ma non me lo andrò a godere quello spazio-tempo lì. E se io dico un autotreno de parolacce, capite? Cioè, qui le matematiche del cielo, la giornata è fatta di un certo numero di ore, no? Che ci ho fatto io quelle ore lì? Più peccati faccio, diciamo così, e meno spazi-tempi conservo per l'eternità creata. E quindi dice, attenzione, siccome quegli spazi-tempi, cioè, sono i miei per quanto riguarda la mia esistenza, ma poi saranno goduti anche da altri. E per cui, Se il peccato dell'uomo fa diminuire questi spazi-tempi, diminuisce l'abbondanza di piacere di Gaudi della gloria accidentale. Chiaro? Quindi la quinta dimensione è un preziosissimo corollario delle teorie relativistiche. Io non mi addentro adesso ad approfondirle perché ne so poco. È uno sprone di giubilo per l'attività cristiana, personale e sociale. È un potente sedativo nell'angoscia per i problemi attuali. È l'antidoto contro il pessimismo. È un vigoroso argomento per intravedere più chiaramente i novissimi o cose ultime che attendono l'uomo. Non è un caso che quest'anno, insomma, a fianco alla catechesi su Tenera Amata, l'altro grande ciclo di catechesi è quello appunto sui novissimi, perché così li affrontiamo insieme. Ed è infine uno stimolo che fomenta la pace e la speranza tra i cristiani pellegrini. Per tutto questo, dunque, il nostro Dio ha voluto oggi dimostrartela oggettivamente. La quinta dimensione è meravigliosa nel cielo. Ascoltate, dopo la fine dell'umanità viatrice, noi glorificati potremo ritornare al passato e vivere la realizzazione dei desideri onesti che si frustrarono in questo mondo. E qui commento io, si frustrarono per vari motivi. Primo, per circostanze del tutto contingenti e relative. Ma per altri motivi è perché qui in questo mondo alcune cose non si possono più vivere. Non è più possibile viverle. Vi ricordate tutti quanti gli amori che sono stati pensati tra ogni singola anima e tutta quanto una serie di anime che Dio ha, come dire, ha sintonizzato, ha fatto l'une per l'altra. Non è possibile viverli in questo mondo. Non è possibile. Non è possibile. Perché purtroppo, noi abbiamo perso la capacità di amare in maniera perfettamente pura. Non c'è più questa cosa. E è impossibile che ci sia, a meno che non avvenga un miracolo. E quindi, come vedremo più avanti, che succede? Quali sono le uniche forme, diciamo così, molto, molto, molto, molto fisiche in cui è possibile manifestare l'amore? Ci vuole il matrimonio monogamico, ci vuole. E tra l'altro monogamico. Tutto il resto è soggetto ad una fortissima limitazione, secondo le più austere pratiche ascetiche che si osservavano un tempo, quasi assoluta. Ma questo non sarà nell'altro mondo. È qui. Però capite che questo impedisce, di fatto, la realizzazione di tantissimi desideri di per sé onesti e anche addirittura alcuni dei quali disposti, predisposti da Dio. Cioè, ricordiamo sempre che Riccardo sta parlando con una persona che ha visto una volta sola in vita sua e verso la quale ha sentito nascere quelle prime forme di innamoramento infantile, molto più grande di lei, tra l'altro. Allora, immaginate, no? Cioè, quella ci avrà avuto 20 anni, questo è un ragazzino di 10 anni, no? Supponiamo pure, cioè, come lo fai a concretizzare una cosa del genere in questo mondo? È proprio impossibile. Eppure, quello era un amore celestialmente stabilito, per quello che Tenera Amata sta lì. Vedete, riprendo la lettura. Ritorneremo per ringraziare come si deve al piacevole modo celeste i favori ricevuti da coloro che ci amarono con amore di carità, oppure per esprimere e realizzare intenzioni lecite che durante la vita mortale ci sfuggirono a causa dell'ignoranza invincibile. Ciò si può fare adoperando paratempi simili a questo in cui ci siamo ubicati, oppure ricorrendo alla sesta dimensione. Che poi vedremo cos'è, io ho già detto la volta scorsa che l'avrò letto 6-7 volte questo libro qui, Non ho ancora focalizzato bene questa sesta dimensione. Spero di farlo durante quest'ultima lettura e se no pazienza, amici miei, perché questi sono argomenti un pochino complicati. Quindi, vuoi dire che i beati ritorneranno a trovarsi e a convivere sulla terra dopo il giudizio finale? Vedete come cambia il nostro orizzonte? Sì, proprio così. Ma non solo sulla terra attuale, ma sul pianeta eterno fin dalla sua creazione. Al presente qualcosa incominciamo a fare, ma con timidezza, per non interferire con gli attuali viventi mortali e con grandi precauzioni, a causa dello stato di interdizione vigente sulla Terra. Questa cosa mettiamocela bene in testa. Stato di interdizione vigente sulla Terra a causa del peccato del mondo. Ripeto. Stato di interdizione vigente sulla terra a causa del peccato del mondo. Noi qui, cioè, allora io ho studiato la legge, penso che lo sa, che chi mi conosce lo sa. Sapete che cos'è l'istituto dell'interdizione legale? È terribile. Cioè, se una persona viene interdetta, è civilmente morta, non può più fare niente senza la firma del tutore. Infatti, prima di fare una cosa di questo genere bisogna risparmiarla, anche se c'è proprio dinanzi un incapace di intendere di volere, meno grave è la sentenza di inabilitazione che lo disabilita agli atti straordinari, che ci vuole la firma del curatore, ma almeno quelli ordinari li può fare. Ma l'interdetto non può fare niente, non può fare. E noi qui stiamo proprio interdetti, stiamo. Non possiamo fare quasi niente. Purtroppo, a causa di cosa? Del maledetto peccato del mondo. Invece, dopo la risurrezione finale, sarà qualcosa di grandioso per i beati. Riuniti con coloro con i quali si amarono con carità, convivenze veramente amichevoli, realizzazione di ideali onesti e di amori leciti al delizioso modo celeste. Incontri con persone non conosciute, della stessa epoca o di periodi storici diversi, e la scoperta di nuovi e gradevolissimi amori della gloria accidentale. Adesso sentite, spero che nessuno si scandalizzi però, perché se uno si scandalizza vuol dire che qui non sta capendo niente. Quindi se non sta capendo niente, faccia un po' di ripasso prima di scandalizzarsi. Riccardo chiede: come mai, domandai stupito, in questo mondo hai appena conosciuto alcune poche donne che ti interessarono, delle moltissime che il nostro Dio ti ha destinato per la tua gloria? Non hai avuto il tempo terrestre per ammirare almeno tutte le donne belle che sono state tue contemporanee? Ricorda che è sufficiente che tu senta l'attrattiva amorosa perché abbia fondamento il vincolo d'amore reciproco nel cielo. Ragazzi, stiamo capendo bene che cosa sta. Cioè, facciamo uno step indietro. Allora, se anche Riccardo le avesse conosciute tutte queste donne che gli interessano, che cosa poteva fare nella vita? Lui che era sposato? Niente, niente. Proprio quasi niente, perché è pericolosissimo avere un contatto con una persona di sesso diverso in questo mondo. Sia che c'è la moglie, sia che la moglie non ce l'hai. Ci vuole il vincolo matrimoniale, che come sappiamo, catechesi dell'anno scorso, quindi rende lecito, come dire, rende lecito, dà una valvola di sfogo lecita alla concupiscenza che inevitabilmente si innesca quando tu entri in contatti neanche troppo intimi con una persona di sesso diverso. E come vedremo, questa, la concupiscenza, attraverso il matrimonio monogamico, e tra l'altro vissuto secondo Dio, è stata da Dio limitata il più possibile, non essendo più possibile. Dopo il peccato originale, ciclo di catechesi dell'anno scorso, che questa cosa non ci sia più. Non è possibile. Né che non ci sia più e non sarebbe nemmeno possibile perché cesserebbe la riproduzione della specie umana, che adesso non ha altri modi, dopo il peccato originale, di riprodursi che questa. Io spero che si riesca a capire. Eppure, lei dice, è sufficiente che tu senta l'attrattiva amorosa perché abbia fondamento il vincolo d'amore nel cielo. Ora, grazie alla quinta dimensione, le tratterai ampiamente. Ha voglia al tempo di stare con tutte queste qui, in amori che allora saranno leciti. Teniamo presente, non so se l'ha già detto tenera amata, ma lo dirà dopo, che nella quinta dimensione e nel paradiso sesso non esiste, piacere sessuale non esiste, non c'è. Questo lo dice già Gesù nel Vangelo, non c'è bisogno che lo dica tenera amata. L'abbiamo visto tante volte l'anno scorso nel circo di catechesi dedicato al peccato originale. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma non i figli dell'altro mondo, che devono prendere né moglie né marito. Dicendo questa cosa, Gesù sta dicendo che in paradiso, attenzione, luogo di esistenza di tutti i piaceri e i divertimenti possibili e immaginabili, leciti, compresi, l'abbiamo già visto in qualche circostanza, quelli culinari. Vi ricordate la pallottolina di Celofan le puntate precedenti, no? Questo è un piacere legato al gusto, no? Che in questa vita dobbiamo moderare, sempre perché stiamo in stato di interdizione, perché altrimenti cadiamo nel vizio della gola. Interdizione. Ma questo piacere è un piacere lecito. Se io mi mangio con moderazione, non lo so, 80-100 grammi di spaghetti alle vongole e ringrazio il Signore, non faccio nessun peccato, anche in questa vita. La grande difficoltà è mantenersi sempre morigerati a causa della presenza del peccato nel mondo. Ma il sesso nel cielo non c'è. Quindi, eliminata questa fonte, diciamo così, di degradazione dell'uomo, perché così è concepito. Tutte quante le forme di amore lecito diventano possibili, come vedremo, perché prevedono delle modalità di trasmissione molto degne dell'uomo e molto belle, e che non possono essere disturbate una volta che stiamo nell'altra dimensione dall'insorgere della concupiscenza, perché non c'è più. Non so se sono stato chiaro. Dice, grazie alla quinta dimensione le tratterai ampiamente e scoprirai amori insospettati che realizzerai d'accordo con le dilettevolissime norme celesti. Si realizzeranno questi qui, eh? E non soltanto della tua epoca, ma di tempi per te passati o futuri. Più avanti scorgerai l'amore umano nella gloria accidentale. Allora Riccardo dice, dovrò viaggiare molto attraverso la quinta dimensione per trovarle nell'ampissima storia della Terra. E lei gli risponde, ma le troverai immediatamente, opportunamente, perché il nostro Dio ha già programmati per la tua maggior gloria accidentale ognuno di questi ineffabili amori celesti. Niente costa fatica nel cielo. Dal Signore dipendiamo e Lui tutto ci dà con infinita magnificenza. Che ne dite, ragazzi? Spero che nessuno, evidentemente, ripeto, si scandalizzi di queste cose, perché chi si scandalizza di queste cose non ha, a mio avviso, né ben compreso cosa significa che Dio è amore, che noi siamo stati creati dall'amore e per amare. E non ha neanche un pochino conosciuto, un po' su questa terra, l'amore di Dio. L'amore di Dio è un amore molto molto sensibile, anche soprasensibile, ma chi impara, almeno un pochino, a pregare sul serio, non è possibile che non riceva qualche piccolo tocco dell'amore di Dio. Voi sapete, i sacerdoti, in cura d'anime, ricevono, stanno in contatto con tante persone. Sapete quante volte mi succede che mi contatta qualcuno che magari mi racconta, sono molto generico, un'esperienza intima, un po' sensibile, un po' apparentemente fuori del comune e te la racconta come una cosa che allora c'è chi magari si insuperbisce un po', che pensa che queste cose accadano solo a lui, oppure chi si intimorisce un po', che dice che ha avuto una cosa strana. Allora, nel primo caso dico guarda che tu te pensi, mica te penserai che solo a te succedono queste cose. C'è un sacco di gente che è il signore, che a cui il signore fa certe facce. Nell'altro caso dico guarda, non ti turbare, non ti agitare, perché questo è assolutamente normale. Cioè, queste cose non ce le ha, soltanto chi con Dio non ci sta mai e non lo frequenta. A volte non accadono subito o non accadono sempre, non sono neanche questa, diciamo, la sostanza più importante. In questo mondo la cosa più importante è servirlo il Signore e amarlo con amore di volontà, non ricevere le sue consolazioni sensibili, ma è quasi inevitabile, perché pur con tutte le precauzioni, le attenzioni che il nostro Signore stesso ha, lo vedremo anche qui, lui è contento se qualche piccola scintilla, qualche piccolo aperitivo, qualche piccola anteprima ci arriva anche in questo mondo di quello che ci aspetta, piccola, perché qui siamo capaci di poterne assimilare poca, e poi abbiamo tutti quanti i vincoli e tutte le limitazioni, lo stato di interdizione, ma qualcosa sì. Passiamo quindi al capitolo 16. È qui adesso, dopo queste cose, Riccardo si arrende, dice: oi, è meravigliosa e sconcertante la quinta dimensione, disse a tenera amata. Sentite la risposta, per questo vi ho detto: non vi scandalizzate, non vi turbate. Lei risponde: sì, a prima vista causa turbamento, perché presenta la realtà del cosmo in un modo nuovo. Ti è difficile rettificare le classiche categorie soggettive molto radicate nella tua coscienza. Ti sei forgiata una realtà egocentrica ed incompleta. I cambiamenti fisici e chimici delle cose, di te stesso, accadono in un dato momento, ma si perpetuano per sempre nel passato, esattamente come avvennero. Sarebbe forse stata così fragile la potenza creatrice dell'Altissimo? Cioè, che cosa intende? Cioè, che lascia che mano a mano che una cosa passa nel tempo svanisce nel nulla? Sarebbe stata così fragile la potenza creatrice dell'Altissimo? Chiede. Ma certo che no, risponde. Ciò che credevi annientato permane immutabile nell'eterna realtà oggettiva. E adesso attenzione, così. Chi sente questa puntata mi farà un po' di domande in meno. Dice: allora ciò che è già accaduto non si può correggere, rimane così, non è vero? Risposta: gli atti virtuosi perdurano senza nessun cambiamento, ma i peccati si possono annientare in tutte le dimensioni del cosmo mediante il perdono divino. Il male morale è la sola cosa annullabile nella creazione. Il male morale, pensate un po'. E ripeto, si può cancellare attraverso il perdono divino, e qui Don Pablo, credo che sia sua, ci ha scritto una nota che è simile a quella che io vi ho detto prima, cioè quale? Il peccato, il male morale, non ha entità, non è un essere. È un'ingiustizia, è un disordine, è un vuoto. È un vuoto colpevole di un bene soprannaturale, un bene impedito, un bene annientato. E quindi è molto facile annientarlo, fermo restando che bisogna pentirsene e ci vuole un atto della misericordia di Dio. È molto grande la potenza redentrice di nostro Signore Gesù Cristo. Vedete qua, quando si dice che il sacrificio di Gesù ha tolto i peccati del mondo, nel senso che li proprio distrugge, non ci sono più una volta che sono confessati. Anche questo per noi è difficile capirlo, perché anche se ho fatto la confessione generale, non ci devo troppo pensare, ma il ricordo dei peccati commessi rimane nella mia intelligenza, cioè io non ci metto niente a tornare indietro nel tempo. Se ho commesso dei peccati in passato, purtroppo qualcosa l'abbiamo fatto tutti quanti, e dice, quella cosa non esiste più, se l'hai confessata con sincero pentimento, quella cosa non esiste più. Esiste nella tua memoria, ma non esiste più nella realtà. E quando saremo dall'altra parte, saremo smemorati di questa? Io a questa domanda non so rispondere. Posso semplicemente azzardare a dire, chissà, sarà lecito sperarlo? O anche dovendola magari ricordare, che tipo di reazione ci susciterà? Non sicuramente quella di adesso, perché nell'altro mondo non si può soffrire. È impossibile. Cioè, se soltanto ripensare a una cosa che ho fatto, mi dice che mi causa tristezza, mi dice, ma guarda che ho fatto, ma sì, lo so che il Signore ha perdonato, mi dispiace tanto che l'ha fatta questa cosa, no? Questa è una sensazione penosa, no? Non è una cosa bella. E questo sicuramente non è possibile viverlo in paradiso, eh? Non è possibile viverlo. Questo stato d'animo non è del paradiso. Questo è sicuro. Se poi li abbiamo dimenticati, se questo annientamento nel fatto, una volta che siamo morti, causa anche un annientamento nella nostra memoria cosciente, questo al momento non so rispondere, non so se più avanti Tenera Amata fa qualche cenno. Ma comunque cessa ogni percezione di malessere, di dispiacere, appunto di turbamento legato a questo. Il momento in cui esprimerlo in maniera santa è questo. Noi non dobbiamo mai disperarci dei peccati commessi o sentirci in colpa o non sentirci perdonati, no. Però piangerli, quindi quando li rievoco in questa vita e mi dispiace tanto di averli fatti perché ho offeso il Signore e ci piango sopra, ma con quel pianto bello, con quel pianto fatto ai piedi di Gesù, dice: ma Signore mio, mi dispiace proprio tanto, vabbè, lo so che mi hai perdonato, ma mi dispiace lo stesso, perché a causa di questi peccati sono stato la causa della tua morte, lo so che tu l'hai fatto con tanto amore e ne avresti fatta pure un'altra per me, per quanto mi vuoi bene, però a me mi dispiace lo stesso, d'accordo? Però questa è la beatitudine evangelica, beati gli afflitti perché saranno consolati. Questo è uno dei pianti santi. Questo pianto è un pianto dolorosissimo, però è quel dolorosissimo celeste che, pur essendo dolorosissimo, ti lascia in una pace imperturba, bellissima. E dopo che è finito ti lascia pure una pace, non solo la consolazione, la gioia. Quindi, questo è un buon esercizio da fare in questo mondo, ma in questo mondo un po' di penitenza l'abbiamo fatta. Dopo non c'è più. È l'unico momento in cui possiamo farlo. Questo. Anche perché se non lo facciamo abbastanza, questo è l'esercizio del purgatorio, amici miei, perché nel purgatorio c'è questo esercizio. Del piangere i propri peccati. In paradiso, no. Fine. Niente pianto e niente lamento. Ok, zero. Né weeping né wailing. Niente. Si dice, attenzione adesso cosa dice Riccardo, che ogni tanto fa ridere, eh? Si dice che bastonata data nemmeno Dio la toglia. D'accordo? Se uno dà una bastonata, nemmeno Dio la toglie. È falso, risponde, questo detto blasfemo, addirittura. Se trovate una bastonata, te la toglie manco Dio. Falso. Anzi, blasfemo. E sentiamo la spiegazione. Supponiamo che un frodatore abbia distrutto un documento che lo comprometteva. Lo bruciò in una precisa data ed ora. Nessun mortale potrebbe rifare tale documento. L'interessato conclude che una volta distrutta la prova evidente, nessuno, neanche l'onnipotente, potrebbe farla riapparire. Il peccatore si sente molto sicuro. Distrutta la prova, non c'è delitto perseguibile. Ma ciò che il malfattore dimentica è che il documento fu bruciato in un certo momento, ma non negli spazi-tempi anteriori. Basterebbe retrocedere nella quinta dimensione per trovare intatta quella carta. Non trovi molto consolante che la stessa cosa avvenga con le opere buone? Perciò non conviene Questa, la predica che ho fatto ieri per l'Immacolata. Rimanere nemmeno un secondo in peccato grave. Perché nel riacquistare la grazia del Signore sono ridotti al nulla gli atti di esistenza e gli spazi e i tempi del periodo in cui l'Altissimo fu respinto dal peccatore. Ridotti al nulla. La giustizia è completa ed intrinseca. Una giustificazione superficiale ed estrinseca non avrebbe senso nella quinta dimensione, che concerne la storia dell'essere. O si cancellano gli atti o perdurano lì. Nel conto finale non rimangono tracce del peccato perdonato. Il suo annientamento è stato definitivo. Di conseguenza, dopo nel cielo, mancheranno quegli spazi e tempi annientati che avrebbero dovuto riempirsi di amore e di carità per meglio godere la gloria accidentale. Capite quello che sta dicendo? Allora, per essere chiari, io faccio un peccato mortale oggi alle 5 di oggi pomeriggio, ok? Se io mi vado a confessare alle 6, ok? Che cosa succede? Che quello spazio-tempo in cui stavo in peccato mortale o quel peccato mortale viene cancellato, ok? Ma se io mi vado a confessare tra 10 anni, che succede di quei 10 anni vissuti in stato di peccato mortale? Una cosa è sicura, eh? Attenzione, perché questi sono i principi, cioè a queste cose, amici miei, dobbiamo pensarci. Leggete San Tommaso d'Aquino se non credete a me. Allora, se tu stai in stato di peccato mortale, non stai in grazia di Dio. Tu puoi compiere delle azioni buone, ma solo umanamente buone, non soprannaturalmente meritorie. Non lo dico io questo qui, questo si trova. Perché? Per un motivo molto semplice, perché non avendo la grazia di Dio e quindi la carità operante, le tue azioni, certo, se tu vedi un vecchietto che sta, che deve attraversare la strada e lo aiuti, quella è un'opera buona, ma non è animata dall'amore soprannaturale, perché non ce l'hai la grazia di Dio. La grazia di Dio è una forma che avvolge la nostra anima. Quindi quella è un'azione buona, attenzione, che merita un premio umano, non soprannaturale. Capite che danno che è stare 10 anni senza confessarsi, stato di peccato mortale? Che danno che è? Perché quando ti andrai a confessare, sì, il Signore distrugge tutti quanti, ma ti sei perso 10 anni, 10 anni di spazi-tempi che avresti dovuto riempire con atti di amore e di carità, cioè compiuti in grazia e animati dalla carità, che quindi avrebbero dato maggiore grazia a te, maggiore gloria e tutti quanti capaci di essere rivissuti nella quinta dimensione. Perché non sono tempi destinati ad essere annientati quando e se ti pentirai, ma riempiti di amore di Dio. Spero di essere stato chiaro, eh? Ma voi capite che le conseguenze, cioè, della comprensione della quinta dimensione. Io ieri dicevo durante l'omelia, senza far riferimento a questo, perché non è corretto farlo dal pulpito, no? Evidentemente. Ma siamo logici. Tanto stiamo una volta c'era l'ottava dell'Immacolata, è stata ieri la festa dell'Immacolata, oggi è il 9 dicembre. Quindi allora, siamo logici. Ma se Dio, per incarnarsi, fa un miracolo perché la sua madre non solo non avesse nessun peccato suo, ma non fosse nemmeno sfiorata dal peccato originale, ma questo che significa, amici miei? Significa che Dio fa qualunque cosa. Muore pure in croce per te, se li prende su di sé i peccati del mondo. Ma lui col peccato non vuole averci niente a che fare. Perché il peccato è il male, è l'unico produttore di ogni sorta di male possibile e immaginabile. Sia quello originale che quello attuale. Ma se uno a questo ci credesse, ma ti pare che porta a battezzare un ragazzino a 4 mesi, 5 mesi? E perché? Ah, perché il padrino non può prima, ah, perché il ristorante, ah, perché no, perché d'inverno fa freddo. Queste sono, io sono parroco, le sento in continuazione queste cose. Cioè, non voglio giudicare evidentemente le persone che non si rendono conto, sto giudicando però le situazioni, i fatti, i comportamenti. Cioè, è chiaro che chi fa questi ragionamenti non ce l'ha questa convinzione pratico-operativa, come le chiama Tenera Amata. Quello non ci crede che un ragazzino che perdura in stato, che perdura nella condizione di averci sulla propria anima la macchia del peccato originale, non solo le conseguenze, la macchia. Noi nasciamo macchiati come se l'avesse commesso lui, anche se non l'ha commesso. È trasmesso ma non commesso, ma gli inerisce come proprio. Fino a quando non viene battezzato, quello sta con l'eredità di Adamo sulla sua anima. Ma stiamo scherzando? Nel Catechismo di San Pio X, già qualcuno ha scritto i commenti durante il video sul video di YouTube, c'era scritto il più presto possibile, non oltre il 10° giorno di vita, che è già un'enormità. Lo stesso, hai fatto un peccato mortale, ma sapete quante volte io dico ai miei parrocchiani, ci sono due motivi per cui potete venirmi a disturbare di giorno e di notte, sbattete la porta, fate quello che volete, anche alle 2 di notte. Olio santo d'estate ben morì, o viatico e confessione. Perché se tu hai fatto un peccato mortale, che ne so, mo, facciamo un esempio brutto, sei andata a prostitute alle 10 di sera. Torni a casa e te pia il magone, vieni a bussare. Alle 11 di notte? Alle 11 di notte. Prima te lo levi sto coso dalla coscienza, e meglio è. Vado domani mattina. Va subito. Adesso non voglio far prendere la psicosi, però capitemi il senso di quello che sto dicendo. Non voglio adesso creare dei mostri che diventano psicopatici, no? Però il senso è questo. C'è gente che non si confessa per 30 anni, per 20 anni. Dice, sì, quelli si salveranno. Immaginate uno che si salva per il rotto della cuffia, no? Come si dice? Dice, ah vabbè, tanto io pecco, tanto poi, a parte che non bisogna fare questi discorsi, no? Tanto poi mi converto prima di morire e mi salvo. A me, se non concesso, questo discorso non deve essere fatto mai e per nessun motivo, perché chi te l'ha detto che ti converti e ti salvi? Nessuno deve essere così cretino ad andare a rischiare la dannazione. Ma a me, se non concesso, quanti spazi tempi della tua esistenza ti rimangono da viverti nell'eternità creata, della tua? Quanti? Quanta gloria accidentale? Quanta? Tenera Amata si rammarica di essere una beata bassa. Certo, era tanto contenta, ma è una beata bassa. Ma perché dobbiamo diventare dei beati bassi? Se possiamo, adesso non dico, cioè, poi se giudica il Signore, ma uno ce la mette tutta, o no? È chiaro, se ci crede a queste cose. Perché se non ci crede, è finito. Se ci crede va bene, ma se non ci crede è finito. Ripeto, non conviene ritardare nemmeno un secondo in peccato grave, cito, perché nel riacquistare la grazia del Signore sono ridotti al nulla gli atti di esistenza e gli spazi-tempi nel periodo in cui l'Altissimo fu respinto dal peccatore. E nel cielo mancheranno quegli spazi-tempi annientati che avrebbero dovuto riempirsi di amore e di carità per meglio godere la gloria accidentale. Obietta Riccardo, ma io avevo capito che il tempo passa e soltanto lascia la sua traccia. Sì, ma la traccia del tempo e dello spazio non consiste unicamente nell'erosione delle cose e nelle rughe sui volti. Vale assai di più. È il perdurare eterno degli innumerevoli spazi-tempi corrispondenti agli atti di esistenza di ogni essere reale. Siamo in grado adesso di capire questa frase senza che la devo rispiegare un'altra volta. Ripeto, il perdurare eterno, eterno. La quinta dimensione si chiama anche eternità creata. Noi, e questo mettiamocelo bene in testa, ci abbiamo una data di nascita a differenza dell'Altissimo, ecco perché lui è l'Altissimo e noi no. anche per questo, non solo per questo. Ma una volta che noi ci siamo, noi non cesseremo mai di essere beati o dannati. Io non cesserò mai di essere. Chiaro? Quindi già questo non dovrebbe far troppa difficoltà a comprendere il concetto di eternità creata. E da quando io sono stato concepito, cominciano i miei innumerevoli spazi-tempi corrispondenti ai miei atti di esistenza. Tenera amata, è difficile accettare questa persistenza definitiva della storia delle persone e delle cose. Contraddice il senso comune. Chissà se il mio corpo infantile che sto guardando non sia un'allucinazione. E Tenera amata con pazienza risponde: No, stai vedendo la realtà, la grande realtà oggettiva, che non è contraria al senso comune, ma contraria agli schemi mentali soggettivi errati, causati dalla natura umana decaduta e sgretolata dal peccato. L'equivoco tuo è simile a ciò che avviene in viaggio. Dal tuo sedile contempli il panorama che cambia continuamente, ma questo cambiamento avviene soltanto nella tua coscienza, poiché dietro è rimasto imperturbabile lo stesso paesaggio. Altra bellissima immagine. In modo, se tornassi indietro, troveresti tutto tale quale lo hai lasciato. In modo analogo, nel tuo breve passaggio di mortale per questo mondo, tu contempli il tuo divenire e quello delle cose dal finestrino del momento presente, con l'incertezza di ciò che accadrà e con la tristezza per le cose gradevoli che ormai passarono. Questo punto di vista erroneo ti fa soffrire più di quanto sembra. Bellissima questa immagine. Pensiamo di stare su un treno o su una macchina. Noi camminiamo, viaggiamo e man mano che viaggiamo, quello che vediamo davanti agli occhi passa. Mi sposto da Roma a Firenze, Roma non la vedo più e da sotto gli occhi vedo Firenze. Ma non è che siccome non la vedo più Roma non c'è. Roma sta sempre là. È che in quel momento io vedo Firenze. Il nostro legame al momento attuale è così. Ricordate anche quell'immagine dell'ultima carta del mazzo di carte. Noi stiamo sempre ancorati lì. Allora, sapete, no? Che succede? In procinto di un evento bello comincia l'attesa, non vediamo l'ora che arriva, che arriva, che arriva, che arriva, che arriva, che arriva, che arriva, poi arriva. E poi quando arriva cominciamo a pensare, ecco qua, mo ce lo godiamo, ma tanto questo finisce, finisce presto. E quando finisce ci intristiamo perché è finita una cosa bella. La vita funziona così. Ma la vita funziona così perché noi stiamo sempre ancorati a questa altra limitazione strutturale. Questa è un'altra limitazione strutturale che fa parte del grande stato di interdizione in cui stiamo. Perché io non posso muovermi, l'abbiamo già visto tante volte, io non posso andare indietro nel tempo, io non posso andare a rivivere la mia vita di bambino, a rivederla, non lo posso fare. Non posso rivivere gli eventi gradevoli del passato adesso. Posso sperare che ne arrivino altri in questa vita mortale, ma io non posso. Ho vissuto una cosa bella l'anno scorso, una bella esperienza l'anno scorso. Posso sperare di riviverla, ma io non posso riviverla quella che. Non posso adesso rivivere quella che ho vissuto l'anno scorso. Adesso non lo posso fare. Dopo che sarò morto, sì, ma adesso no. E dopo che sarò morto, se vado in paradiso, eh. Attenzione che tutti quanti questi bei discorsi, questi valgono per le anime beate, eh. Questi non valgono per le anime dannate, eh? O meglio, non lo so se poi sarà il caso di fare un appendice per guastarci la festa, perché ci starebbe una bella appendice da fare di quello che si può presumere che accada alle anime dannate. Attenzione, che non moriranno mai, e che per tutta l'eternità resteranno tali. Chiusa parentesi. Questo punto di vista erroneo ti fa soffrire più di quanto sembra. Perché? Domanda Riccardo. Per esempio, soffri quando perdi un amore legittimo. Invece la tua pena si mitigherebbe fino quasi a svanire se accettassi sul serio la persistenza che di tutti gli esseri. La speranza cristiana di riavere un giorno ciò che hai perduto diminuirebbe l'attuale dolore. Il germe dell'immortalità e il fatto della sopravvivenza sono in te, come puoi constatare nel tuo corpo di bambino. Nessun atto è perduto. Tutto perdura eccetto i peccati perdonati dal Signore. E due. Quando dici un anno fa, quest'oggi ebbi una grande gioia, ricordi quell'evento con un'ombra di amarezza, perché lo consideri già andato lontano ed irripetibile. Ma non è così. E che fortuna che tu ti sbagli. Niente passa e perisce in questa vita. Il tempo passato è un archivio perenne. Nulla ti ha tolto. Se tu credessi nella quinta dimensione, pieno di gioia, esclameresti: è da un anno che sto ricevendo una gioia profonda e duratura, e tanto più la vivrò nuovamente quando sarò nella patria. Lascia dunque quel tuo gusto per le canzoni che parlano di ciò che finì per sempre. Finiamo alla grande oggi, leggo quest'ultimo capoverso. Come vedi, ti succede come a bambini piccoli, quando perdono un giocattolo. Piangono sconsolati perché la palla è rotolata sotto il letto. Tu ti rattristi perché i tuoi beni perduti, la tua giovinezza. Posso fare una battuta? Per chi si trova come me, i capelli. O i tuoi momenti di legittima gioia passarono dal momento presente nell'ambito della quinta dimensione. Tristezza inutile, a meno che tu la viva con amore di carità. Ma se invece tu confidassi nel nostro Dio, come il bambino è sicuro di sua madre, attenderesti con pazienza fino a riavere tutto, con abbondantissimi acquisti, tra l'altro, quando con la buona morte, quindi morte in grazia, si romperà il tuo legame col momento attuale ed entrerai trionfante nella gloria. Perciò il cristianesimo è la religione della gioia. Chiudiamo così, no? Alla grande. Quindi immaginate se uno a queste cose comincia a crederci veramente. Le cose belle che ho vissuto nella vita non sono un passato che non tornerà più. Ce l'ho in banca, ce l'ho. Tornerà! E lo rivivrò più bello di prima, perché quando lo rivivrò potrò vivere e fare in quel passato gradevole anche tante cose che, a causa del mio stato di interdizione presente, non si potevano fare in quel momento. Vedremo poi quando Tenera Amata ci racconta gli animali che abbiamo posseduto. Io qui ho i miei fortunatissimi gattini. Quando torneremo nell'eternità creata, non anticipo. Perché loro, quei 15 anni di vita, loro se li conservano tutti e 15, i loro peccati li possono fare, quindi tanto beati loro, no? Loro hanno il loro limitato tempo di vita terrena, ma anche per loro c'è l'eternità creata. E il godimento di cui sono capaci, loro non possono avere la visione beatifica, ma possono essere beatificati da noi, che siamo i sacerdoti del creato. Anticipo questa cosa qui, adesso però non andiamo troppo in là. E vi anticipo subito che la prossima puntata cominceremo dalla grande domanda: ma perché Dio permette che soffriamo? La grande domanda di tanti, però non l'affrontiamo adesso perché stiamo a 59 minuti e dobbiamo chiudere, amici. Quindi ne parleremo la prossima settimana, a Dio piacendo. Una santa notte a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.